Di Daria Galateria, introduzione alla vendetta di una coquette di Ninon de l'Enclos, Sellerio Editore. La vendetta di una coquette è la risposta al delizioso, pungente ritratto di una coquette con cui un filosofo non più alla moda si vendicava di una cocente punizione mondana. Il Portrait de la coquette o La lettre d'Aristandre à Timagène, pubblicato nel 1659 a Parigi chez Charles de Cercy, elenca le istruzioni di uno zio al nipote provinciale che va a stabilirsi a Parigi. Non c'è apprendistato mondano migliore di quello che si può acquisire nei salotti delle coquette, ma il prezzo è altissimo, non solo in senso materiale, dice il filosofo. Sanno certamente spogliare un amante o usare la sua borsa per ingentilirsi agli occhi di un nuovo innamorato, ma la loro vera nocività è di ordine mentale. Sono, come le preziose, donne indipendenti. A caderne vittime si rischia la sudditanza ideologica. Scrive il filosofo, queste civette non si accontentano di rendersi padrone dei loro beni, della loro libertà e di disporre della loro vita. Addirittura si adoperano ad assoggettare e mettere in loro potere la ragione degli amanti. Agli sventurati schiavi non è permesso chiamare buona o cattiva una cosa che non sia stata dalle coquette approvata o disapprovata. Il pericolo non è da sottovalutare perché, abituate a esercitare il pensiero in allegra autonomia, le civette rasentano il libero pensiero. Sospirano che non bisogna mai parlare di cose divine perché sono questioni da preti, e cosa intendono con questo se non praticare con bel garbo lo scetticismo? Scrive ancora il filosofo: se un onest'uomo vuole ragionare di cose elevate, viene marchiato col titolo di filosofo e con il ridicolo di essere noioso, goffaggine da cui è impossibile risollevarsi. Con l'età alcune civette diventano devote, ma il genere più tenace subisce una mutazione ancora più seccante. Da coquette si trasformano in preziose, da Venere in Palladi. È di questa tempra accanita evidentemente Ninon de l'Enclos, tenuta velatamente ma costantemente sotto mira dall'autore del portrait, il ritratto. L'invelenito autore dello squisito trattato è un poligrafo, Félix de Jouvenel, cresciuto effettivamente in provincia, nel natio Languedoc, dove aveva composto con larghezza di intenti poderose opere come Don Pelagio o L'entrée des morts en Espagne nel 1645 e L'histoire des papes et d'église universelle. Da Pesena, dove era nato nel 1596, si trasferì a Parigi per subire insieme al suo dotto maestro in filosofia, Louis de Leclache, l'umiliante bando mondano decretato da Ninon, apparentemente per una colpa non grave, carenza di ironia. La rappresaglia di Ninon al portrait supera in impalpabile malizia il testo di Jouvenel. Nella Coquette Vengée, infatti, scritto da Ninon per vendicarsi del ritratto che gli avevano fatto, la zia Eleonora catechizza la nipote, arrivando a Parigi, eviti i filosofi. Nella sua inesperienza, Eleonora era caduta a suo tempo nella rete di un funesto, graziosissimo personaggio, il cui ritratto è già una raffigurazione del Tartufo di Molière. Il resoconto dello scotto salottiero inflitto successivamente a due filosofi sfiora un tema più serio che aleggia etereo e quasi inavvertito dentro la storia. Il primo dei filosofi puniti è Louis de Leclache, aristotelico. Leclache è l'autore, in Formidabili, in quarto, dell'Ordre des principales choses dont il est parlé dans la philosophie, in cui ha ridotto il pensiero del maestro della dialettica in tavole sinottiche. In un colpo d'occhio si possono abbracciare molteplici concetti. Leclache è ben accetto in molti salotti e non sembra un pedante. Dal farsetto non fioriscono merletti, ma per il resto non adotta l'austerità giansenista. Il secondo filosofo castigato è Jouvenel, ha frequentato l'Hôtel de Rambouillet, il salotto quindi dove Madame de Rambouillet convocava le riunioni delle sue preziose. La sua famiglia è antichissima, è sposato e ha cinque figli, e nel complesso la sua apparenza è ancora più innocua. Una frase nella Coquette Vengée, la coquette vendicata, li denuncia. Ninon fa dire alla sua Eleonore mentre spiega alla nipote: quando dico che dovete evitare i filosofi, non parlo dei professori né dei giansenisti né dei liberi pensatori, la cui professione è aperta e dichiarata. Intendo certi pedanti mascherati, pedanti in toga corta. e l'ipocrisia dei devoti, la toga corta dei seguaci allo stato laico dei gesuiti, che Ninon processa. Le Cloche era famoso per le conferenze da salotto sulle beatitudini, il Padre Nostro, declamate in pieno carnevale. In casa della duchessa de Guillon, il giorno in cui Blaise Pascal aveva spiegato il funzionamento della sua macchina calcolatrice, Le Cloche aveva dimostrato, servendosi delle sue tavole filosofiche, l'immortalità dell'anima. E per l'appunto Jouvenel, nel portrait, nel ritratto di Ninon, attacca nelle coquette l'avversione al matrimonio, l'emancipazione, frutto nel preziosismo galante dello scetticismo. Ninon segnala in Le Cloche e Jouvenel due devoti che si insinuano nella società dei liberi pensatori, forse appartengono alla temibile segreta compagnia del Santo Sacramento. Un'altra chiave suggerita da Ninon è l'attacco di Le Cloche alla poesia. Che cosa non ha detto contro Balzac? Dice Ninon. Voiture e tutti gli autori di lettere, commedie e romanzi. Gente inconsistente che abbandona la conoscenza delle cose concrete per attaccarsi alle parole. La Coquette Vingée, pubblicato in Italia come La vendetta di una coquette, è una delicatissima difesa della letteratura e delle passioni contro la teoria e della ragione contro la dottrina. Anche la religione è tollerabile se, come nei giansenisti, è un entusiasmo e un delirio e non potere terroristico e occulto, come nella Compagnia del Santo Sacramento, che vigila e perseguiterà Ninon prima ancora di puntare gli occhi su Molière. Tra leggiadria e prudenza, Ninon scrive un testo mite, ma la sua cautela non fu sufficiente. La Coquette Vingée, La coquette vendicata o La vendetta di una coquette fu pubblicata a Parigi nel 1659 presso lo stesso editore che aveva già pubblicato Il ritratto della coquette di Félix de Jouvenel. E ora, edito da Sellerio e tradotto da Daria Galateria, di Ninon de L'Enclos, La coquette Vingée, La vendetta di una coquette. Da Devana, buon ascolto. Nipote mia, diceva Eleonore a Filomena, quando sarete a Parigi non fate amicizia e non conversate con uomini di ogni tipo. Bisogna operare una scelta e soprattutto evitate i filosofi. È una parola che non comprendete, come vedo. Un po' di pazienza, ne conoscereste presto il significato. Quando Dorilas, vostro fratello, frequentava il collegio, avete visto spesso a cena da voi un signore che entrando faceva tante riverenze e tanti gesti, rideva in faccia a tutti, parlava ogni sorta di lingue tranne la nostra. Aveva sempre i capelli spettinati, la barba sporca, il colletto aperto, sempre infangato, sempre con la sottana unta e il lungo mantello lacero. Non ricordate che scoppiaste a ridere un giorno a tavola quando disse al servitore che gli versava da bere di coprirsi il capo, altrimenti non avrebbe mai accettato il bicchiere dalla sua mano? Con cerimonie così lunghe e insistenti che sarebbe morto di sete se vostro padre non avesse avuto pietà di lui? Lo conoscete? Era il maestro che insegnava la filosofia a Dorilas. Era un filosofo, ma non era di quelli di cui voglio parlare. Avete inoltre sentito parlare 100 volte di un certo abate del vicinato che conduce una vita ritiratissima, pensa solo a se stesso, non vuol farsi degli amici per non contrarre obblighi nei loro confronti. Si sottrae al bel mondo per evitarne i fastidi, fugge le compagnie come occasioni di intrighi e di preoccupazioni, ama soltanto i suoi libri e i suoi cani, e comunque i cani più dei libri. E ogni volta che ne abbiamo parlato abbiamo sempre sentito dire che era un filosofo. Ma non è neppure questo il tipo che intendo. Vi sono altri filosofi che amano la compagnia, ma quella dei loro simili, con cui godono di piena libertà di azione, potendo dire e fare di tutto. Filosofi ingordi che frequentano le bettole, si ubriacano continuamente, perché sostengono di non provar mai tanto piacere come quando hanno annegato, stordito, la ragione, che gioca loro 100 brutti tiri quando veglia, costringendoli a fare 100 riflessioni sgradevoli. La definiscono la principale nemica della loro tranquillità. Questi filosofi si condannano da soli. Dunque, quando dico che dovete evitare i filosofi, non intendo parlare né di un dotto, né di un solitario, né di un libertino, le cui opinioni sono limpide e dichiarate. Intendo certi pedanti camuffati, pedanti in toga corta, filosofi da camera che hanno un colorito un po' più fresco degli altri perché si nutrono all'ombra e non si espongono mai alla polvere e al sole. filosofi da salotto, che dogmatizzano seduti in poltrona, filosofi galanti che ragionano incessantemente d'amore e non hanno nessun motivo per farsi amare. Non potete credere quanto sia fastidiosa certa gente. I primi tempi che abitavo a Parigi, ancora impregnata dell'aria delle nostre province, quando mi andava bene il primo venuto, purché mi rivolgesse la parola, feci conoscenza con uno di quei personaggi. Arrivò per caso in una casa in cui ero in visita con una cugina. Era vestito molto semplicemente, non aveva fiocchi né merletti, non ricordo neppure se avesse delle frange. Il cappello, una piccola fascia, era un po' lustro, le calze di seta non facevano la minima piega, il mantello era ben calzato sulle spalle, il farsetto abbottonato e piccoli polsini all'estremità delle maniche, il guanto di Grenoble in mano. Niente era superfluo. Un'occhiata, un sorriso, un cenno supplivano a tutte le riverenze studiate che non valgono nulla. Il figlio della padrona di casa gli fece un'accoglienza calorosa. Mio figlio è felice di vedervi, gli disse la madre. È il signore tale, disse a tutti i parenti e i presenti. C'erano molte signore, ma non mi parvero granché impressionate. Pensai che la conversazione interrotta dal nuovo arrivo le assorbisse tanto da far loro trascurare di accoglierlo con riguardo. Il suo nome non mi era nuovo. Me ne avevano parlato in provincia dei giovani di ritorno da Parigi. Prese posto vicino a me. La conversazione su un matrimonio che c'era stato a corte proseguì. Né lui né io dicevamo una parola, io perché non ne sapevo nulla, lui perché l'argomento non era di suo gusto. Lui immaginò che fosse la stessa ragione a far tacere entrambi. Dopo aver aspettato un po', né io né voi, mi disse sottovoce, partecipiamo alla conversazione generale. Possiamo farne un'altra senza disturbarla? Tanto parlano così forte che si stordiscono da sole, dunque è impossibile con il rumore che fanno che ci sentano. Gli risposi. Mi disse ancora altre cose, a mia volta gli diedi altre risposte, ma cercavo sempre di mettere in ciò che dicevo qualche arguzia, qualche parola singolare. Capì che ero una provinciale. Allora mi fece 100 domande sul mio paese, sulla mia nascita, sul nome, sulla casa, sui libri che leggevo. Cosa non disse contro Balzac, Voiture e tutti gli autori di lettere, commedie e romanzi? Gente inconsistente che abbandona la conoscenza delle cose concrete per concentrarsi sulle parole. Mi fece un gran discorso sull'argomento, accalorandosi tanto che spesso irrigidiva il braccio e stringeva il pugno. Concedetemi, mi disse infine, l'onore di venirvi a trovare. E in un mese saprete più di quanto potrebbero insegnarvi in una vita tutti questi chiacchieroni. Non ci sarà argomento serio di cui non potrete parlare sul momento. Da un rigo che io vi dirò potrete trarre mille conclusioni, formare mille discorsi. Qualche tempo dopo venne a trovarmi, come mi aveva promesso. Comprai dei libri che chiamano tavole. Me li spiegava ogni volta che veniva da me. Era la mia unica occupazione. Trascuravo tutto il resto. Le sue visite e i miei studi durarono un anno e qualche mese. Avevo tempo a disposizione, non conoscevo ancora il gran mondo, ma alla fine dovetti ricevere tante visite ogni giorno e ad ogni momento che potevo vederlo soltanto in compagnia. Entrò in camera mia un giorno che era presente Polixen con Philidor, suo fratello, un gentiluomo tra i più dotati e brillanti che conosca. Signore, gli disse Philidor, giungete a proposito. Avete insegnato tanta filosofia ad Eleonore che ci fa spazientire. Le dicevo che un amore costante è la più bella di tutte le virtù. Mi ha risposto fieramente che confondevo le virtù con le passioni, che l'amore è una passione e non una virtù, e che una passione non diventa per la sua durata una virtù, ma solo una passione più lunga. Mi ha detto 100 cose altrettanto poderose. Sono stremato, vi chiedo soccorso. E come potrei soccorrervi? Fu la risposta. Eleonora ha tutte le mie forze e dalla sua parte. Vi ha rivelato l'origine di un errore comune tra gli uomini, che consiste nel prendere per una passione ciò che spesso è o una virtù o un vizio. Succede quando non si conoscono la natura e il numero delle passioni. Tutto ciò, aggiunse, è spiegato in due tavole. Prese il libro che era su un tavolino e, cercata la tavola delle passioni, la diede a leggere a Philidor. Come? Disse Filidor. È questo tutto quello che si può dire delle passioni, di tutti gli slanci impetuosi che ci agitano nella vita? È davvero un vasto mare racchiuso in uno spazio angusto? Lavorate straordinariamente in piccolo. Come? Soltanto una riga per l'amore? Ecco una divinità ben stretta. Se basta una riga per provvedere a tutti gli innamorati, deve essere molto lunga. Chi vuol diventare sapiente in questo modo ha bisogno di un grande istinto. L'amore è un'inclinazione del desiderio al bene sensibile considerato in assoluto. Ah, sarò molto più galante dopo aver imparato questa massima. Avrò molte più opportunità di farmi amare. Avrò idee ben più brillanti per riempire la conversazione. Non c'è niente di più bello né di più pieno dell'amore. Eppure questo libro lo riduce a uno scheletro secco, scarno, livido. Se tutta la filosofia di quell'uomo è di questo tenore, sapete che ne penso? È una regina misera e rinsecchita, le cui tavole sono imbandite proprio male. Il mio filosofo si stava scaldando, ma per metter fine a una conversazione che stava per inasprirsi, presi il liuto e suonai qualche sarabanda. Filidor, con la sua abituale scioltezza, le danzò tutte. Parlammo poi della danza. Credevo di aver eliminato in tal modo ogni occasione di diverbio quando Polixen, con malizia, provò a chiedermi se non ci fosse nel mio libro una tavola della danza. Signore, disse Polixen al filosofo, dovete farne una per amor mio. È semplicissimo, disse Filidor, gli risparmierò la fatica. In primo luogo introdurrò qualche proposizione generale per dimostrare la necessità o l'utilità della danza. Poi darò la definizione. La danza è un movimento ritmato del corpo al suono, della voce o degli strumenti. Può essere o semplice o figurata, o lenta o animata. Poi noterò i vari tipi, le sarabande, i brandi, le correnti, i balletti, distinguerò i passi, il passo strisciato, il fioretto, lo scambietto. Addio, maestri di ballo. Quando la mia tavola sarà pronta, chiunque la leggerà saltellerà alla perfezione. Polixen rideva di cuore. Il mio filosofo uscì indispettito. Gli corsi dietro, mi scusai meglio che potei in anticamera, mi disse che non era affatto offeso. Che Filidor era un giovanotto appena uscito dall'accademia che voleva divertirsi e quanto alla sorella era convinto che fosse un'autentica coquette. Aggiunsi che era evidente che in futuro non avrebbe più potuto istruirmi. Mi supplicava di dispensarlo da tale incombenza. Al suo posto mi avrebbe mandato un ex allievo che conosceva il suo metodo come lui. Lo ringraziai calorosamente della sua bontà. Ci separammo e così cominciò una storia molto più divertente. Sebbene parlasse solo per tavole, definizioni e suddivisioni, il mio filosofo aveva tuttavia il pregio di accontentarsi di essere ascoltato e di non pretendere da me e dalle donne che frequentava nient'altro che un po' dell'attenzione dovuta ai suoi discorsi. La disposizione del suo amico, che Filidor chiamava il suo assistente, era ben diversa. Faceva il galante. Voleva suscitare l'amore di cui parlava, a volte sospirava, cantava persino delle arie che spacciava per sue, complete di parole. Era invidioso in generale di tutti gli uomini. Biasimava ciò che dicevano, non ne trovava uno che ragionasse a suo gusto, erano tutti ignoranti o sventati. Persino il nostro sesso, che è sacro e inviolabile tra i gentiluomini, non trovava gusto presso di lui. Si erigeva censore di tutte le bellezze, pretendeva di giudicare il carattere e lo spirito di ogni donna con una tale presunzione che a sentirlo pareva che non avessimo altro valore se non quello che a lui piaceva accordarci. Questo scatenò contro di lui la congiura universale di tutte le donne e di tutti gli uomini che ricevevo. Non mi dissero niente perché sapevano che avrei avuto pietà di lui e che smascherando il complotto l'avrei sventato. Sorvegliando continuamente la mia casa in attesa della sua prossima visita, fu facile per loro sorprenderlo in camera mia. In un momento arrivarono tutti. Mai riunione fu più numerosa. All'inizio tutti gli fecero molte feste. Io ne ero stupita. L'incomparabile, l'inimitabile, il più galante, il più arguto, il più versatile, il più garbato degli uomini, gli dicevano. Lui stesso non si raccapezzava. Fu pregato di fare un breve discorso, spiegò le 8 beatitudini. Di tanto in tanto il pubblico esclamava: Mirabile, veramente! Fu pregato di cantare E sebbene lo facesse con terribili sforzi, convulsioni e contorsioni da ossesso, sebbene la sua voce fosse penosa e lugubre, come il volto era scuro e malinconico, si diceva ad alta voce che ormai Lambert e la sorella potevano essere congedati. Tra gli applausi incessanti, Polixen gli mostrò un biglietto galante che aveva ricevuto. Non volle neppure leggerlo. Erano sciocchezze in grado di divertire solo dei degenerati. Tutti gli dissero che aveva proprio ragione e che l'uomo era nato per cose più grandi. Mai nessuno fu più soddisfatto e contento di sé, e poiché era Polixen a lusingarlo di più, si fece tanto audace da avvicinarsi a lei e dirle parole tenere. Lei le accoglieva con tale calore da incoraggiarlo sempre più, le prendeva la mano, le toccava il braccio e, fingendo di volerle dire una parola all'orecchio, la baciò. Allora Polixen gli assestò un sonoro schiaffo. Era il segnale dei congiurati. Tutti si avventarono su di lui, uno gli dava un buffetto sul naso, questo è per il filosofo innamorato, l'altro grandi colpi di spillo, questo è per il musico innamorato, l'altro grandi bacchettate sulle orecchie, questo è per il poeta innamorato. Fece il possibile per soccorrere la sua filosofia, la sua musica, la sua poesia, attaccate da tutti i lati, e tutto ciò che ottenni con i miei sforzi fu di tirarlo fuori dalla ressa e aprirgli la porta per farlo fuggire. Andandosene urlava con tutte le sue forze: Coquette, Coquette, saprò vendicarmi! E mi è stato detto che, essendo morto per le ferite o la disperazione, è stata trovata tra le sue carte una violenta invettiva contro le donne, firmata Aristandre, che i suoi eredi hanno fatto stampare a loro spese. Ero alquanto seccata che quella sventura gli fosse accaduta in casa mia, ma devo incolparne me stessa per essere stata così sventata da dare libero accesso da me a dei filosofi, ossia a persone che portano il biasimo, la maldicenza e il disordine nelle compagnie più belle, più dolci e più piacevoli. Nipote mia, basatevi sulla mia esperienza e guardatevene bene. Così parlava Eleonore a Philomène, che capiva una parte e intuiva il resto.